Whistle Ball, what is a law? Il aglio cala, non puglia il vino, non puglia il vino, non è mi blocca, non è mi blocca, il bello è mo, il bello è mo, fare al ragno, pensai cavilla, a chi demanes, che calda sta mes, chi busca chi è di geni, che fa no semestre, al proprietari, o del contrari, per la smontare. Io mi faccio dormire che mai avete ballare.